tre testi, tre situazioni che però sono unite da un tema di fondo, da un'idea di fondo sulla quale vorremmo riflettere, e cioè il progetto dell'uomo e il progetto di Dio, progetto di vita. Se avete badato, in tutte e tre le situazioni il Signore porta i tre protagonisti ad accettare le misure del suo mistero, esemplificando. Davide pensa di costruire questa casa del Signore, il profeta Natan è d'accordo, se non che Dio gli dice che non ha bisogno di nessuna casa e che la sua casa è l'uomo, è il popolo. San Paolo, uno zelante fariseo, obbediente alla legge, e in nome di questa perseguita le cosiddette sette dei cristiani, e che hanno un'altra legge, la legge del Vangelo. Però viene buttato giù da cavallo. Maria ha un suo personale progetto di vita. Promessa sposa a Giuseppe. Quando le viene fatta la manifestazione dell'intenzione di Dio, stupore, si meraviglia. Ecco la custode della vita del figlio di Dio. Tre situazioni, tre progetti umani, per quanto nobili, santi, vengono rivisti, scomposti, sublimati anche dal disegno di Dio. Picco di riflessione per noi. Essere uomini di fede non credo si debba identificare con prosecuzioni di abitudini, di tradizioni religiose, altrimenti il nostro sguardo è rivolto al passato. Intendo dire, liturgicamente in queste domeniche diciamo venga il Salvatore, nasca il Salvatore. Ma oggi parlare di salvezza significa dire cose nuove. Magari in parte anche diverse da quelle che, come dire, si potevano intendere dai nostri padri, anche dentro la Chiesa, oggi. C'è bisogno di riempire di contenuti, di significati nuovi, questa, tutto al maiuscolo, parola. Questo messaggio. Allora che cosa dire? Che questa salvezza si realizza nell'annuncio di una parola del Signore, attraverso certo le mediazioni umane. È per questo che qualche domenica fa dicevo parola di Dio e parola dell'uomo. È l'uomo che ci ha offerto le cose che noi andiamo leggendo, meditando. Quindi attraverso condizioni umane, mediazioni umane. Non dunque aspettare quasi magicamente una parola che scenda da chissà dove. Tu scendi dalle stelle, ti raccomando. Bensì assumere il significato, il peso, ma anche la gioia di questa parola. Scoprire il valore della parola di Dio, conoscerla, pregarla, perché questa parola dà un senso nuovo magari ai nostri progetti di vita. Riusciamo forse a cogliere il significato attraverso queste due situazioni. Dopo aver organizzato il re Davide, dopo aver organizzato un popolo, dopo aver ricostruito Gerusalemme, vuol costruire a Dio un tempio, una grande casa, e Dio lo contesta. Non ho bisogno di un tempio. Non ho bisogno di un tempio. Il vero tempio di Dio è l'uomo. Il tempio, le organizzazioni, le liturgie, le devozioni, eccetera, eccetera, non sono il fine. Al più sono necessità umane. Abbiamo bisogno di segni, abbiamo bisogno di parole concrete che quasi si toccano con la mano. Quindi non è che sono un male, qualche volta sì, qualche volta certe pratiche religiose sono, vabbè. Quindi non sono un male, ma sono di sostegno, se volete, sono dei simboli. Dio può giungere agli uomini con il suo messaggio di salvezza, senza passare attraverso i nostri tempi, le nostre organizzazioni, le nostre leggi, quindi fino a qualche decennio fa si diceva fuori dalla Chiesa Cattolica non c'è salvezza, bum bum, no. Non ha nemmeno bisogno che Maria conosca uomo, perché la libertà di Dio è al di sopra. Qui siamo nel singolare. E qui si capisce anche, o si capiscono, le nostre inquietudini, i nostri dubbi, i nostri tanti perché non capiamo, non capiamo. Il mistero non è da capire. O ci si gioca insieme al mistero e guai a noi. Purtroppo ai bambini togliamo un po' questo alone del mistero, ma guai a noi se perdiamo, guai a noi, insomma. Non siamo così autentici se non entriamo anche dentro in relazione con un mistero. Davide non capisce, però la sua fede. Maria non capisce, obbedisce, cioè lascia che Dio operi, si è abbandonata. Aver fede significa abbandonarsi. Esperienze anche umane molto forti. Allora l'obbedienza di fede vuol dire non l'orgoglio di negare la necessità, ma essere disponibile all'impossibile. È una, così, disponibile all'impossibile. Ma è questo. Dio opera anche fuori dai confini, dalle nostre pratiche, dalla nostra cultura, dalle nostre organizzazioni. Il regno di Dio si compie perché Dio opera. Allora vorrei suggerire questa conclusione anche, perché il testo del Vangelo fa irrompere questa parola di Dio che cambia i progetti, cambia o promuove o sublima i progetti umani. Il quotidiano, e quando diciamo quotidiano, diciamo un mare di cose, belle, non belle, faticose, gioiose e così via. Il quotidiano è il luogo, dico la parola, teologico per eccellenza. Cioè là dove si può parlare di Dio. Una volta, dallo stile alto della storiografia di corte, la storiografia di corte, no? Quelle ufficiali, quelle delle biblioteche particolari, no? Dove si diceva questo, questo e questo, la storiografia, insomma. Il luogo vero della, cioè avviene una narrazione, la narrazione di una situazione della più ordinaria quotidianità, il luogo in cui la promessa si realizza è, se guardiamo le letture di oggi, il corpo, la storia, il tempo, le relazioni tra le persone, l'interiorità di un cuore, la trama delle quotidiane vicende dell'esistere, e in quell'impatto con la promessa stessa, dove viene ridisegnato il compimento della promessa e anch'essa novità. A Maria è rivolta una promessa da Dio e il suo compito è abbandonarsi, credere alla promessa, credere l'incredibile. Lei, vergine, avrà un figlio. Promettere e far sperare. Promettere e far sperare. E dare un senso e una direzione al tempo che si vive, nelle azioni che si compiono. E suscitare un'attesa. Posso fermarmi qui, no? Poi voi siete molto intelligenti. Ci lavorate su. E se non siete d'accordo, alzate la mano. Gloria a Dio nell'alto dei cieli.